Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, appuntamento con il calcio internazionale, dunque con Fabio Tavelli, bentornato Fabio. Buon pomeriggio, grazie Gigi, un saluto a tutti. Partiamo da Tokyo direi, perché insomma quella che una volta, adesso lo sappiamo, l'altro anno ha coinvolto il Milan, è quello che storicamente era la finale secca tra la vincitrice della Coppa dei Campioni europea e quella sudamericana è diventato un torneo. Oggi mi pare che tocchi al Manchester, che rimane comunque il favorito, credo. Sì, anche per manifesta inferiorità degli avversari. Poi, sai, queste sono partite in realtà molto più pericolose per chi è favorito, perché succede che tu devi farti un volo insomma discreto con il Manchester United. Tra l'altro il Manchester ha già festeggiato, hanno fatto il loro solito Christmas party nel quale non se ne salva uno di giocatori. Abbiamo visto su internet delle foto veramente di giocatori un po' provati, mettiamola così. Per fortuna quest'anno mi sembra che lo strascico sia soltanto quello del mal di testa del giorno dopo e non ci siano state situazioni penalmente rilevanti. Ma insomma, detto questo, il Manchester United ha tutto da perdere, perché le avversarie non sono particolarmente temibili, sono più o meno sempre le stesse, però sono avversari più allenati, più ormai abituati al fuso, che hanno già una partita nelle gambe in quelle situazioni ambientali. Quindi tutto sommato, se il Manchester vince è campione del mondo e fa bene a gonfiare il petto, nonostante il fascino sia certamente calato rispetto agli anni passati. Se invece perde, beh, insomma, rischia una figura non consona al suo blasone. Se il Manchester United vincesse avrebbe fatto davvero un tris fantastico, perché campionato Premier League, cioè quindi Premier League, Champions League e Coppa Intercontinentale, a noi piace ancora chiamarla così, mi sembra che sia un grande slam veramente rilevante. Senti, può complicargli, intanto segnalo ai nostri tecnici che Davide Di Biglio scrive da Alba che da qualche giorno c'è un problema di ricezione per Radio 24, credo che in quella zona, sto leggendo Bertolaso e i suoi rapporti della protezione civile, credo che ci siano problemi ben più seri di questo, per la verità. Comunque la segnalazione equivale all'intervento, come sapete. Il Manchester rischia con qualcosina in campionato, nel senso che tutte hanno un po' rallentato, no? Liverpool, Chelsea, Manchester ha pareggiato col Tottenham e forse ha fatto il risultato più positivo dei tre pareggi, considerato il valore dell'avversario. Però già aveva un match da recuperare, adesso se ne accumula un altro. Là, come è noto, a Natale e a Capodanno, anziché lasciare, raddoppiano. Non può intasarsi un po' il calendario pericolosamente? Guarda, proprio per quest'anno il Manchester United è quella che ha tutto da perdere, nel senso che il volo avanti e indietro in Giappone e soprattutto la concatenazione di partite che ci saranno intorno a Natale, che quest'anno avranno un turno in meno, però il Manchester United di fatto ha il calendario dell'anno scorso, perché recupererà la partita col Fulham sotto le feste. Questo significa che il Manchester United in questo momento rischia di perdere qualcosa, perché certamente se il Manchester United vincerà la Coppa Intercontinentale, come è normale pensare che possa accadere, penso anche che magari qualche ora in più a Tokyo potrebbe fermarsi a festeggiare, il che significa perdere comunque energie, ore di sonno e tutto il resto, e poi per tornare alle gare sotto Natale magari con un po' di concentrazione in meno. Quindi in questo momento, se Liverpool e Chelsea vogliono scappare via, hanno un'occasione importante. Sì. Insomma, è chiaro che se fosse arrivato un mese fa questa partita sarebbe stato meglio, però poi avrebbe potuto avere dei risvolti sulla Champions. Insomma, onestamente il calendario è talmente zuppo di impegni che è davvero difficile pensare a dove sistemare bene queste date. Senti, andiamo in ordine sparso, perché quella dell'erba di Wembley io penso che sia una gonfiatura della stampa in dubbio, figurarsi i tabloid se non ci inzuppavano il biscottino. Però è carino comunque sapere che la cura dei particolari maniacale che Capello ha sempre avuto per tutto arriva fino all'altezza dell'erba su cui deve giocare la nazionale. Ma lui è veramente il manager di questa squadra, e devo dirti che la federazione in questo gli ha dato ampio mandato, nel senso che se siamo abituati a pensare a un commissario tecnico come unicamente selezionatore dei 22 migliori da portare a una competizione con Fabio Capello, ci sbagliamo. Ma è proprio nella mentalità inglese quella di così come si affidano nei club le chiavi del mercato ai agli allenatori che diventano e vengono chiamati manager, così è lo stesso anche per la nazionale inglese, dove Capello ha preteso e ottenuto di essere anche a suo rischio a questo punto, perché è ovvio che ogni volta che le cose non andranno bene gli imputeranno anche il centimetro in più o in meno dell'erba di Wembley. Lui si è assunto un rischio, lui ha la personalità per prendersi anche queste cose, e credo sempre che gli allenatori meno cose extra tattiche hanno da pensare, forse meglio è, però è effettivamente è un qualcosa di inconsueto, ma non in Inghilterra. No, certo, arriva un messaggio di un ascoltatore che non ha seguito la cosa. Rapidamente, Capello vuole l'erba alta 17 mm, mi pare, sì, e sì. Giardiniere per i 19 invece. E sì, trattandosi sì. di un giardiniere della regina, figurarsi se molla sui suoi 19 centimetri. No, ma è una questione culturale, un po' come certo. la di Wimbledon. Beh, certo, è difficile, certo. È sempre difficile. Noi magari ci mettiamo a ridere, consideriamo queste cose banali, come loro magari considerano banali altre cose per noi. Però è così, per anni l'erba dei campi brasiliani è sempre stata molto molto più alta, quindi gli europei facevano fatica come a no. giocare là, come ed è così, insomma. Non c'è dubbio. Qualche ascoltatore sollecita la lettura dell'intervista rilasciata oggi da Rivera alla Gazzetta, beh, l'ha rilasciata anche a molti altri quotidiani, se è per questo, ma lo faremo più tardi, quando torneremo agli affari interni, anche se ci sarebbe un coinvolgimento degli affari esteri per via del palmarès del club più titolato al mondo, come il Milan sta attribuendosi, no? Da etichetta che, insomma, facendo due righe di conti con Real Madrid, mi sembra che non ci siamo granché, sempre che la matematica non sia diventata un'opinione. Ma restiamo in territorio internazionale, anche perché c'è un campionato, c'è un girone d'andata di cui già si può tracciare un bilancio, che è quello tedesco. Guarda Gigi, prima di parlare della Bundesliga, io ti voglio dire un'altra cosa. Vorrei parlarti della Zweite Bundesliga, cioè della Serie B tedesca, ma non perché sia un argomento particolarmente interessante per gli ascoltatori, ma perché lunedì sera mi è capitato in conduzione alla TV di avere davanti al monitor sia la partita di Kaiserslautern, Fritz-Walter Stadion tra Kaiserslautern e Friburgo, quarta contro seconda, e la partita di Modena tra Sassuolo e Ancona, ed è stata la partita che ha mandato il Sassuolo prima in classifica. Grande onore, grande merito al Sassuolo. È una cosa fantastica che il Sassuolo sia così competitivo. A Modena, ovviamente, stiamo parlando quasi di un campo neutro, stadio piccolo, comunque gradevole, perché il Braglia non è un brutto stadio per i nostri standard, ma una tristezza colossale. Fritz-Walter Stadion, 42.000 persone, un muro, Gigi, t'assicuro, di gradinata che sembra quello di Dortmund. Stiamo parlando di una città importante, stiamo parlando di una città che ha anche vinto dei titoli. Non voglio fare il paragone tra il Sassuolo e Kaiserslautern, perché sarei blasfemo. Però è stato veramente imbarazzante vedere quanto bello sia lo spettacolo di colori, di immagine, di luce, di tutto quello che c'è. Io ripeto, non voglio entrare nel discorso tecnico, sto soltanto parlando della cornice dello spettacolo, ed è una cornice veramente clamorosamente bella, e che anche la Bundesliga, a maggior ragione la Bundesliga, riesce ad avere. Questo è un campionato dove fai veramente fatica a vedere un seggiolino, perché sono tutti occupati, sì. E parlo di seggiolino perché gli stadi sono bellissimi, e credo che loro, Germania 2006, il loro mondiale l'abbiano vinto, anche se non l'hanno vinto sul campo, proprio perché negli anni di preparazione e negli anni post, perché ormai sono passati 2 anni e mezzo, il calcio in Germania ha fatto un salto in avanti veramente pazzesco. Problemi di ordine pubblico non ne hanno. Hanno certamente una cifra qualitativa inferiore rispetto alla Premier League, alla Liga e al campionato italiano, ma questo non lo cambi dall'oggi al domani. Ma hanno un'organizzazione complessiva e hanno anche un campionato molto combattuto, perché il loro campionato è quello più stretto per quanto riguarda le squadre. Ci sono 5 squadre che lo possono ancora vincere. Hanno il loro Sassuolo in testa alla classifica, che è l'Hoffenheim, campione d'inverno, matricola, mai stati in Bundesliga. E questo vuol dire che è un bel campionato. Ti ripeto, non ci sono lì i migliori. Probabilmente il Bayern di Monaco non vincerà la Champions League, però è un campionato che si fa vedere, un campionato interessante, un campionato bello, ed è un campionato nel quale ripeto, ci sono 4-5 squadre che lo possono vincere, considerando anche che una delle squadre classiche di alta classifica, il Werder Brema, è attardato, quindi vuol dire che è un bel campionato e quindi il bilancio è certamente positivo per la Bundesliga. Non c'è dubbio, il fatto del il colpo d'occhio del pubblico è veramente impressionante, sì, ed è imbarazzante per noi. Io sono innamorato delle immagini che arrivano dalla Premier League, ma salvo rari casi, cioè gli stadi tedeschi e i colori che esprimono i tedeschi, che non hanno striscioni ma hanno solo bandiere o sciarpe, sono veramente bellissime e io credo che siano più belli di quelli spagnoli, più belli di quelli italiani e che facciano a gara, ma siano ancora forse più gradevoli di quelli inglesi in questo momento. Mentre da noi le telecamere devono viaggiare rigorosamente a rasoterra, guai se devono inquadrare un rinvio a campanile, perché come si alza la telecamera e si inquadra una tribuna di qualsiasi stadio di ordine e grado. Ma sai anche perché, Gigi? Perché i nostri stadi sono talmente vecchi che molti hanno ancora la pista d'atletica che viene riempita di quei cartelloni che ti impediscono di fatto di andare nelle prime file perché non vedi niente. Mentre invece questi che sono stadi costruiti per il calcio sono stadi dove la pista d'atletica non c'è e quindi tu puoi stare tranquillamente a 10 metri dalla linea di fallo laterale e non hai i cartelli davanti per cui ti devi arrampicare per vedere la testa dei giocatori, perché è così. Il vecchio stadio delle Alpi, mi dicono che per 15 file non si vedeva nulla, quindi è ovvio che sono vuote ed è ovvio che le inquadrature poi sono impietose, perché sembra di giocare negli stadi vuoti. San Siro ad esempio non è così. Certo. Parliamo di muri, di muraglie, e parliamo, facendo un piccolo passo indietro, del muro di gente che ha assistito a Barça Real. La domanda però da cui comincerei è questa. Io ho passato, non dico la notte di sabato, ma insomma qualche buon minuto, e anche l'indomani, a cercare notizie sui giornali di Cannavaro, perché l'ultima immagine è Cannavaro che si schianta contro il palo, che resta giù, che viene portato fuori in barella, ma è inquadrato solo per una frazione di secondo, perché in realtà tutti stanno inquadrando Messi e la grande festa della panchina del Barça. Di Cannavaro per fortuna non si è più saputo nulla, il che vuol dire che non è grave, perché la velocità a cui si è schiantato contro il palo per cercare di rimediare a quel lob di Messi era spaventosa. Guarda, è stata un'immagine impietosa. Ho la sensazione che 2 anni fa Cannavaro quella palla l'avrebbe tirata fuori, ma non perché Cannavaro 2 anni fa fosse più forte di oggi, forse sì, anzi certamente sì, ma proprio perché ci sono dei momenti nei quali ti riesce tutto, e ai mondiali a Cannavaro veramente c'è andato, a parer mio l'ho vista alcune volte, c'è andato con la gamba un po' tesa e questo spiega anche perché si sia schiantato sul palo, non ha cercato l'acrobazia raccogliendosi per la mezza rovesciata, insomma, forse. Perché insomma è una cosa da Igor Cassina quella, cioè una roba che puoi fare solo se sei al massimo della forma e forse non al 90esimo. In ogni caso no, Cannavaro ha preso una botta terrificante, gli va dato merito di averci provato fino in fondo, perché comunque è uno che non molla mai. Fortunatamente nemmeno io ho trovato più una riga. Credo che lui stesso non sia uno che ha tanta voglia di far sapere che si è fatto male in quel modo, e quindi è andata così. È stata certamente una prodezza di Messi e c'è la piccola, piccolissima umiliazione, ma ripeto, l'umiliazione non è il termine giusto, di aver visto l'avversario che è andato a schiantarsi contro il palo. È il momento dell'intervallo, io credo. Ho fatto prima quel brevissimo excursus sul Piemonte, su quello che la Protezione Civile Bertolaso ha appena detto sulle montagne. Leggo, ecco perché non potrei mai uscire allo sport. Leggo un messaggio che dice: finché c'è quella mentecatto della Bresso, tanto vale fare la danza antipioggia. Ora, Mercedes Bresso, la Presidente della Regione Piemonte, secondo l'idiota che ha mandato questo messaggio, che ovviamente non lo firma, e che mi colpisce perché in genere qui arrivano cose di argomento sportivo, la colpa di un presidente di regione è che siano caduti 5-6 metri di neve. Pensate che zucche ci sono in giro e sono in possesso di tastiere. In Alta Langa, scrive Maurizio Robaldo, ci sono paesi da 3 giorni senza luce, altro che senza onde radio, e viva Rivera, l'uomo senza cervello. Torniamo al calcio internazionale e al Camp Nou. Era evidentissimo, palese nei primi minuti, Fabio, come quando Ramos avesse preparato la partita davvero con l'umiltà della squadra di provincia, punto che su Messi, la randellata a Messi non gliel'ha mai tirata lo stesso, gliel'ha tirata in 4 nei primi 20 minuti, alternandosi, esattamente come si fa nelle squadrette che affrontano gli squadroni da quando esiste la zona. Ma si sarebbe detto all'italiana una volta, sì, certo. Certamente non è più così. Io credo onestamente che da un lato Schuster abbia sbagliato a dire è impossibile vincere al Camp Nou, ma non avesse proprio così tutti i torti. Beh, è ovvio che sono cose che non si dicono, soprattutto pubblicamente. Detto questo, quando Ramos sapeva che affrontare a viso aperto il Barcellona avrebbe esposto la squadra al rischio di una figura di un punteggio, non voglio dire tennistico, però tutti in Spagna, sponda Barcellona, un po' si aspettavano che potesse accadere questo, e certamente i madridisti l'hanno temuta e hanno giocato da provinciale per il pareggio, sì. Non disdegnando, magari, oddio, se capita un contropiede va bene, però il Real Madrid piccolo. Sì, se il ragazzino, detto però Fabio, che se il ragazzino un istante prima è un filo più freddo sullo 0-0 un istante prima del gol di Eto'o, poi vediamo come finisce. Guarda, io quando Casillas ha parato il rigore ho cominciato a vederla qualche possibilità che il calcio non è la prima volta. Io mi ricordo, secondo me, una delle partite più sbilanciate della storia fu Brasile-Argentina ai mondiali del 90, quando poi segnò l'Argentina ed eliminò la partita, giocò a Torino ed eliminò il Brasile. Può succedere che una squadra molto più forte perda, e poteva anche succedere sabato sera, certo, poi forse è giusto così, è giusto che quelli più bravi in questo momento vincano, però devo dire, a me è piaciuta molto l'umiltà, la determinazione, la voglia di non arrendersi, la nobiltà vera del Real Madrid di mettersi allo stesso livello di un Recreativo Huelva piuttosto che di un Athletic Bilbao, E di mettersi lì ad aspettare e fare come fece Muhammad Ali contro George Foreman, di certo. Prendere un sacco di pugni e poi sperare che l'altro si stanchi. Certo. E Muhammad Ali a Kinshasa ci riuscì, e al Real Madrid non è riuscito, perché il Real Madrid oggi non ha il colpo del KO che aveva Muhammad Ali, soprattutto contro un avversario forte come il Barcellona, che non si è stancato, perché il Barcellona è una squadra molto leggera ed è una squadra che quando sta bene, perché anche Eto'o, che sembra uno grosso, non è assoluto, cioè è uno che ha un fisico pazzesco, ma non è assolutamente un giocatore pesante, come non è pesante Henry, come non è pesante Messi, come non sono pesanti tutti loro come idea di gioco. E quindi quando una squadra va così, ha una velocità di crociera che è molto superiore alla tua, tu la puoi fermare soltanto facendo dei muri, però poi l'onda ti può scavalcare, quindi ci sta tutto. È giusto che abbia vinto il Barcellona oggi è la squadra, secondo me, insieme alla Roma, che gioca il calcio più bello, più divertente, più anche di futuro, no? Nel senso che ha un'intercambiabilità di ruoli e una capacità di mascherarsi che è bellissima. Poi bisogna vedere quanto dura. Io credo che durerà, onestamente, che a primavera, se loro stanno bene, faranno il torello con tutti. Però può anche darsi di no, perché poi il calcio insegna che tante belle squadre d'inverno poi si sono squagliate in primavera. Sì, sì, non c'è dubbio, anche se questa sta durando, è già un bel pezzo d'autunno oltre all'inverno. Sono ormai 3 mesi che loro giocano un calcio fantastico. Ci sono un po' di ascoltatori nostalgici che si chiedono perché, insomma, tu debba figurare solo così temporaneamente a Radio 24. Vabbè. E poi ce n'è uno. Parlarne, sì, ce n'è uno che si firma Daniele ed è un bolognese che invece trova una spiegazione, perché dice che stare a Scarpò 24 al fianco di Tania è quasi un hobby, e quindi ha trovato lui la risposta. La risposta a questa domanda. E anche a Pavia in questo momento si sente poco, Gigi, devo dire che non ho capito bene cosa hai detto. Che un ascoltatore bolognese, invece, Daniele, risponde a questi nostalgici dicendo che stare a Sky Sports 24 al fianco di Tania è un hobby in realtà, e che quindi questo spiega queste scelte. Abbiamo varie ed eventuali, caro Ministro. Guarda, varie ed eventuali. Se no, ne suggerisco una io. No, suggeriscimela tu. Allora, no, suggeriscimela tu. No, un paio. Una è un punto veloce su Inghilterra e Francia, nel senso che mi pare che da tutte e due le parti, sì, Chelsea qua e Lione là, abbiano rallentato, e questo lo si vede dai numeri, e che anche dietro, voglio dire, ci sia una certa timidezza, per cui le classifiche si sono comunque accorciate, anche in Francia, dove non sembrava molto possibile. No, credo che il Lione però quest'anno lo faccia quasi apposta, nel senso che loro, di vincere il settimo titolo consecutivo, per carità, non fa schifo, però però a loro interessa la Champions League e credo che loro stiano veramente riprogrammando i carichi di lavoro già adesso, prima della sosta, per andare forte a febbraio-marzo, e quindi ci sta tutto che il Lione pareggi qualche partita. Quello che volevo dirti io era sulla Premier League, che è veramente clamoroso quello che sta succedendo, perché sembra che le grandi si stiano marcando. A me vengono in mente le sfide di Coppa America di vela, quando chi sta davanti frena per marcare chi sta dietro per evitare il sorpasso, perché Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, spessissimo, è già la terza volta quest'anno, fanno esattamente lo stesso risultato nella stessa giornata, ed è onestamente clamoroso. La suggestione più bella del fine settimana è ovviamente il ritorno di Gianfranco Zola a Stamford Bridge. Io onestamente ho provato emozione nel vedere lui arrivare a Stamford Bridge, figurarsi lui, ma le telecamere sono andate solo su di lui, cioè sì. I 5 minuti prima dell'inizio della partita erano soltanto su Gianfranco Zola. Questo significa che questo ragazzo a Chelsea ha lasciato veramente un marchio indelebile, e poi è stato bravo a guidare i suoi, che sono anche andati in vantaggio con Craig Bellamy e ha rischiato di vincere contro il Chelsea in una stagione nella quale mi sembra il Chelsea sia veramente deludente in casa. E non so, tu hai certamente più memoria di me, ma io non ricordo una squadra che vince 11 partite consecutive fuori casa, stabilendo peraltro anche un record, e fa così fatica a vincere in casa. Certo. Cioè, una squadra così da on the road io onestamente non me la ricordo. No, difatti, a parte che al Chelsea con fuori Drogba certo, e si comincia a leggere di qualche dissapore tra scolari, i seniores, cioè insomma i più anziani, eccetera. Sì. Poi c'è questa è proprio l'ultima, c'è una bella intervista a Vieira che ha parlato a Field Football, in cui ha raccontato che testualmente essere un giocatore di colore in Italia è più difficile che negli altri paesi, perché si ricevono più frequentemente offese sia in campo che fuori. Non c'è dubbio. Questo è... Non c'è dubbio, anche perché lui ha giocato nei due campionati migliori per quanto riguarda l'integrazione, e cioè la Francia e l'Inghilterra. Dove questo fortunatamente è un problema che loro hanno risolto anni fa. Non solo questo, ma comunque questo, visto che parliamo di questo, questo l'hanno risolto tanti anni fa. Sì, devo dire, Gigi, la cosa forse più bella del weekend è il campionato argentino, che si concluderà con un gironcino a tre che trovo memorabile, nel senso che non lo so, forse è il sogno davvero di ogni tifoso malato di calcio, di vedere il campionato deciso da un gironcino a tre piuttosto che da una finalissima, non so, cosa che peraltro non è nemmeno tanto giusta, forse perché poi si tratta davvero quasi di una roulette, però è molto bello, è certamente anomalo come fatto, ed è giusto segnalarlo, ed è giusto parlarne. È di grande spettacolarità. Noi ci facciamo in tempo a risentirci martedì prima della grande sosta invernale, insomma. Molto volentieri, Gigi, grazie. Grazie a Fabio Tavelli. Andrea da Mestre domanda: cosa pensa della maxi squalifica a Rivalta? Ovviamente su maxi squalifica ci ha messo le virgolette, perché Rivalta ha preso una giornata. Io credo che sia perfettamente inutile lamentarsi della non troppa, perché non ce n'è troppa, ma insomma ce n'è ogni tanto, anche troppa comunque, violenza sul campo, cioè nel senso di interventi violenti, pericolosi per l'incolumità altrui, antiprofessionali, quindi eccetera, sia perfettamente inutile lamentarsene se poi un'entrata come quella, un calcio da dietro di quella violenza come quello che Rivalta ha tirato domenica a Palladino, frutta una giornata di squalifiche. Diego da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno a voi tutti e grazie per avermi richiamato. Io chiamo per lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sentivo prima che parlavate degli stadi che hanno la pista d'atletica intorno e pertanto che non sono, diciamo, ottimali per le prime file. Il Ferraris è uno stadio splendido da questo punto di vista, perché forse è uno dei pochi impianti in Italia costruito veramente all'inglese, che soffre però di un problema che va avanti da tempo e che nessuno riesce a risolvere, che è la qualità del manto erboso. Addirittura ci sarebbe, questo secondo un'inchiesta fatta da alcune TV locali, una lettera da parte della Federcalcio penso proprio della Federcalcio, che qualora la qualità del manto erboso del Ferraris non venisse ripristinato a livelli accettabili, le squadre genovesi sarebbero costrette a emigrare su altri impianti. Io... ecco, volevo sapere se lei ne sapeva qualcosa, perché insomma fosse... Non ne so nulla, sarebbe molto penalizzante, però è indubbio che molto avanti così non si può andare, perché quello è un campo su cui non si può seriamente giocare a calcio, soprattutto se dovesse continuare a peggiorare in quella maniera. Non c'è tempo per un ascoltatore di Viterbo, che prego di pazientare, o mal che vada lo richiamiamo tra qualche minuto. C'è tempo invece per un brevissimo messaggio di Angelo Brugnoli da Roma, che scrive: ma secondo lei se Mihajlovic non avesse segnalato Totti a Boskov, questa è una polemica di questi giorni, anzi di ieri, in cui Mihajlovic ha rivendicato il fatto di essere stato lui a far debuttare Totti, avendolo segnalato a Boskov quando giocava nella Roma. Allora, spiritosamente, Angelo dice: se Mihajlovic non l'avesse segnalato a Boskov, oggi Totti giocherebbe a mora cinese o a ping pong? In effetti, meno male che c'era Mihajlovic, meno male che l'ha raccomandato a Boskov anziché al comandante Arkan. Torniamo, c'era un ascoltatore in attesa da tempo che va premiato per la pazienza. Grazie Francesco da Viterbo, buongiorno. Grazie a voi. Dica. E buon Natale a tutti gli ascoltatori, anche se un po' in anticipo, ma insomma ci siamo ormai. Sì. Allora, io spesso la sento dire che un modo per risolvere i problemi dei vari teppisti che infestano gli stadi è di aumentare il prezzo del biglietto. Mi ha sentito dire questo? Diciamo in Inghilterra in Inghilterra sono riusciti, il discorso è che in Inghilterra sono riusciti a mettere, diciamo così, una pezza, una regola, aumentando anche i prezzi, diciamo, uno dei metodi è stato anche questo, non è solo questo. Allora io penso che invece questo porti ancora di più lo stadio in mano a delle persone poco pulite, in quanto questi, se vogliono andare allo stadio, i soldi li trovano, mentre le famiglie, i giovani, i bambini, aumentando i prezzi, questo sarebbe il modo per non farli più avvicinare agli stadi e quindi tenere gli stadi in mano a queste persone. Insomma, in Italia non è applicabile, ecco, questo discorso. Lei qualche tempo fa, parlando con un corrispondente da Londra, disse che l'Inghilterra ha fatto questa politica per poter, diciamo, anche se è stata una scelta cinica, comunque sia dare i suoi frutti. Sì, ha fatto anche questa scelta insieme a tante altre. Cioè, questo è uno dei modi in cui è stato affrontato e poi vittoriosamente risolto effettivamente quel problema, però altrove non è stato necessario. In Germania, per esempio, non è stato necessario fare una politica dei prezzi al contrario, cioè nel senso di alzarli. Io non credo che in Italia oggi sarebbe la strada da percorrere, perché i prezzi sono già abbastanza alti, perché di quattrini ce n'è sempre meno e perché con degli stadi così vuoti non credo si possa pensare questo. Credo che andrebbe fatta una bonifica a monte, ma dovremmo ricominciare anche oggi un discorso che tanto abbiamo capito che non ci porta da nessuna parte. Tocca ad Antonello da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io prima sentivo il collegamento del signor Tavelli parlare di, insomma, che oggi il Barcellona insieme alla Roma gioca il miglior calcio d'Europa. Mi sembra veramente esagerato dire, dopo quattro partite che vince la Roma, di dire che la Roma gioca, insomma, il miglior calcio d'Europa. In questo momento, anche se, insomma, la mia opinione non è, insomma, può essere sicuramente discutibile, credo che in questo momento insieme al Barcellona e tante altre squadre, diciamo, alcune altre squadre, a giocare il miglior calcio sia la Juventus, che vedo che in alcuni momenti fa viaggiare il pallone a 100 km orari. Volevo sapere cosa ne pensa lei, visto che, insomma, non ha commentato questa opinione del signor Tavelli. Ma ha lasciato, ha sorpreso un pochino anche a me, mi sorprende ancora di più la sua, sinceramente, perché se parliamo di estetica, il calcio della Roma ha dei momenti di alto divertimento e di alto possesso palla in velocità. Cosa che non mi pare che la Juventus abbia, invece ha altre caratteristiche. Poi sa, sul bello non è sempre facile mettersi d'accordo, perché per fortuna abbiamo gusti diversi. Io lascerei stare i paralleli sia con Roma che con Juventus che con chi che sia, e direi che oggi vedere giocare il Barcellona è uno spettacolo, questo sì, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, perché vedere giocare a calcio a quella maniera, con quella ricerca, con quella preparazione dell'azione, con la palla che circola continuamente, toccata a quel modo e con interpreti di quel livello, credo che sia uno spettacolo per gli occhi. E fermiamoci lì, senza stare andare ad aggiungere altri, anche se, le ripeto, tra i due paragoni fatti preferisco ancora quello di Tavenni. Roberto da Piacenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Allora, da ex tifoso juventino, tifoso di calcio, di persone, vorrei fare un paio di considerazioni sul Milan. La prima, per quanto riguarda Leonardo, un clamoroso scivolone, secondo me, perché indipendentemente dal momento del Milan, secondo me una persona della sua statura intellettiva non si deve mai offrire come allenatore dai club di cui è. Ma Roberto, però mi scusi, io non ho letto, perché queste sono cose che lasciano il tempo che trovano, però mi pare di poter escludere che Leonardo si sia offerto. Gli sarà stata fatta una domanda, gli sarà stato chiesto se un giorno gli piacerebbe, lui avrà risposto di sì, correttamente. Cioè, penso, immagino, non... Mettiamola così, via, dai. Penso di sì. Mettiamola così. Secondo Ancelotti, io credo che dal 2000 a oggi sia stato il più grande allenatore del mondo, non tanto perché abbia vinto tutto quello che poteva vincere, perché ha vinto con una squadra che non era nelle sue corde tecniche e tattiche. Terza cosa, per quanto riguarda il numero dei titoli, i club più titolati del mondo, io credo che in questo momento a Calderone gli stia venendo una sindrome vasovagale. A chi questo ha? A Calderone, ma perché ci sono dei dati oggettivi, non è vero che il Milan è il club più titolato del mondo, assolutamente, non è vero, perché debbano dire queste cose qua, cioè non, mi sembra, voglio dire, anche un'offesa nei confronti dei tifosi che non sono stupidi, perché i calcoli 2 più 2 li sanno fare anche loro, voglio dire. Ma Roberto, effettivamente, vede, io credo che proprio qua ci sia la differenza vera tra il calcio e la politica, nel senso che in politica si può dire di tutto, si può ripeterlo reiteratamente, tanto poi i riscontri sono relativi. Nel calcio, soprattutto quando si parla di numeri, quando si parla di palmarè, di statistiche, di trofei, insomma, diventa un po' più imbarazzante. L'altra sera Berlusconi ha detto: sono il presidente che ha vinto di più, la storia del calcio mi ricorderà. E fin qua, secondo me, è sacrosanto, perché il presidente che ha vinto di più in Italia credo che lo sia, anche se non ne sarei certo, ma credo di sì. La storia del calcio mi ricorderà, non c'è nessun dubbio. Ma ha aggiunto: il grande Santiago Bernabeu, che sarebbe il presidente degli anni 50 e 60, del tempo di oggi Real Madrid, ha conquistato la metà di quello che ho ottenuto io. Allora, due righe di conti, già fatti una volta peraltro, perché questa cosa Berlusconi l'aveva già detta una volta in studio a porta in campagna elettorale, e ovviamente Vespa non era tenuto a essere pratico di palmarès, probabilmente non era tenuto nemmeno a ribattere. In ogni caso, questa cosa passò. Passò e fu poi insomma, la risposta arrivò dalla Gazzetta dello Sport, arrivò anche da questa trasmissione, ricordando che Santiago Bernabeu ha vinto 16 scudetti contro i 7 di Berlusconi, a parte il fatto che li ha vinti il Real Madrid e il Milan e non Santiago Bernabeu e Berlusconi. Ma per seguire il suo linguaggio, Santiago Bernabeu ha vinto 16 scudetti contro 7, ha vinto 6 Coppe di Spagna contro 1, ha vinto 6 Coppe dei Campioni contro 5 e ha vinto solo 2 Coppe Intercontinentali contro 3. Il totale è di 29 a 16. Ora, 29 trofei contro 16, faccio un po' fatica ad arrivare a meno della... ha conquistato la metà di quello che ho ottenuto io, perché è esattamente il contrario, ha conquistato quasi il doppio, avrebbe dovuto dire, di quello che ho ottenuto io. Ed è, ripeto, la differenza tra la politica e il calcio. In politica si può andare a ruota libera anche in maniera reiterata, nel calcio, soprattutto nelle statistiche calcistiche, non è esattamente la stessa cosa. Claudio, dalla provincia di Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io avrei bisogno di un aiuto, nel senso che io ho visto le squalifiche del giudice sportivo. Sì. Che vengono compilate, se non erro, leggendo il referto arbitrale, giusto? Sì. Ora le cose sono due: o l'arbitro non sa scrivere e allora va fermato, oppure il designatore non sa leggere e va fermato lui. Perché io non riesco a capire come ha fatto Milanetto a prendere una giornata sola, e io sono tifoso del Genoa, quindi Milanetto a prendere una giornata sola, che come minimo due sarebbero state anche poche, e Rivalta uguale una. Ora mi viene da chiedere, uno che domenica è stato squalificato, che ha preso due gialli magari per due trattenute, qua mai dice, oh, la prossima volta chi se ne frega, Giranco via la caviglia, tanto chi se ne frega prende una giornata lo stesso. Ora io veramente sono rimasto veramente male. Sono d'accordo, la capisco. Infatti io credo che un buon tariffario per quei tre espulsioni di domenica fosse da una giornata a due per la prima espulsione, perché era già un'entrata brutta. Decisamente la prima. Un paio di giornate a Milanetto ci stavano tutte tranquillamente, direi anche comodamente. Io per un fallo come quello di Rivaldo andavo dalle 4-5 giornate in su, però il giudice sportivo invece lo fa Tosello, e lo fa sulla base dei referti. Se il referto, lui l'ha spiegato chiaro anche ieri a proposito di Vucinic, tra l'altro, ha detto lui, io sono quello che compila i verbali di contravvenzione sulla base dell'infrazione che mi viene segnalata. Se gli viene segnalata un'infrazione non particolarmente grave, lui non può, non ha altri margini di giudizio. Andiamo in provincia di Novara da Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io volevo agganciarmi al fatto degli spettatori che vanno allo stadio, sì. Che da noi purtroppo vengono a mancare, ci va poca gente, al contrario dell'Inghilterra o della Spagna o della Germania e tutto quanto. Ma sì. Io volevo sentire un suo parere da lei, ma il problema, a parte la televisione, le piste di atletica, e purtroppo alcune volte capita che c'è la violenza, o perché magari quello che offrono le squadre non è più all'altezza, cioè qual è il problema vero secondo lei? Perché io sono un tifoso dell'Inter e vedo che anche l'Inter, primo in classifica, fa comunque 40.000, 45.000 spettatori. Sì, che sono tanti, ma che non è il tutto esaurito che uno si aspetterebbe. Son tante le ragioni, Giorgio, ne parliamo in continuazione e non la finiamo mai, nel senso che ormai dovremmo saperlo, no? Tra la violenza di fondo, gli stadi scomodi, la concorrenza della pay TV, il fatto che si giochi un calcio non particolarmente divertente, aggiunga quelli che vuole, il fatto che per le famiglie sia impossibile pensare allo stadio come a un posto di un posto da frequentare con un minimo di sicurezza, insomma, ne aggiunga quante altre vuole e arriviamo a questo mesto risultato. Il consueto ripasso di storia affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 dicembre 1989. A Tokyo, il Milan di Sacchi sfida per la Coppa Intercontinentale l'emergente Atlético Nacional de Medellín, guidato da Francisco Maturana. Il duello tra due squadre che si annullano tatticamente non è memorabile sotto il profilo dello spettacolo. La svolta arriva solo al penultimo minuto dei supplementari, merito di un calcio di punizione di Chicco Evani che coglie alla sprovvista il portiere colombiano Higuita. Il Milan conquista così la Coppa Intercontinentale per la seconda volta, a 20 anni esatti dal successo ottenuto dalla formazione allenata da Nereo Rocco sugli argentini delle Estudiantes. Eccola qua, a proposito di trionfi del Milan, quella fu una partita molto deludente, no? Rispetto alle attese, per chi la ricorda, mentre quella di 20 anni prima era stata la partita credo più scioccante, io ahimè per ragione della grafica la ricordo bene, la partita più scioccante credo della storia del calcio ad alto livello, anzi ci toglierei il forse, gli direi senza dubbio. Gianni, provincia di Brescia, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Ascolti, io la chiamo per le vittorie del Milan. Volevo puntualizzare perché ho visto che probabilmente si sta parlando un po' a senso unico. Ed è facile fare del sarcasmo, diciamo, quando l'interlocutore non c'è davanti per controbattere. Berlusconi ha sempre detto che il Milan è la squadra che fuori dai confini nazionali ha vinto più titoli di tutti. A questo punto, come dice lei, la matematica basta andare a contarli. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, io ho in mano il Corriere della Sera di ieri. Sono il presidente che ha vinto di più, la storia del calcio mi ricorderà, il grande Santiago Bernabeu ha conquistato la metà di quello che ho ottenuto io. Dato che la frase è la stessa pronunciata 6 mesi prima della Vespa, io non credo ci sia bisogno di invitare nessuno per immaginare che siano parole sue, anche perché le ha pronunciate dinanzi a tutti, dinanzi a 800 persone in occasione della festa del Milan, subito dopo aver detto, per fare un omaggio a Rivera, Rivera aveva il cervello nei piedi, quindi mi pare che fosse nel pieno della sua forma. Ora, io ho fatto 2 righe di conti stamane, perché effettivamente davanti a questa certezza, a questa sicumera, ripeto, è vero che in politica è più facile, nel calcio è più difficile, ma ho detto magari tante volte ci siamo sbagliati. Il Milan ha uno straordinario albo d'oro, soprattutto in campo internazionale, e comunque contando tutti i suoi trofei, se ci mettiamo gli scudetti, le Coppe Italia, le Coppe dei Campioni e le Coppe Intercontinentali, il Milan arriva a 32, che è un numero sinceramente impressionante. Ma se noi contiamo gli scudetti, le Coppe di Spagna, le Coppe dei Campioni e le Coppe Intercontinentali del Real Madrid, arriviamo a 60. 60 contro 32, secondo me c'è ancora una piccola differenza. Roberto, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, Stefano, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione, perché ascolto la 24 al giorno. Bene. Io volevo fare un intervento, io premetto che sono di Bologna, non vado allo stadio, perché lo stadio di Bologna, secondo me, per la vista è veramente orribile. Riguardo a quello che diceva lei dell'iniquità della sanzione per ribalta, perché in una trasmissione su una TV locale vidi un'intervista, non so se si ricorda, di Liguori, l'ex giocatore del Bologna, sì, che fu troncato, sì, da Benetti, di fatto a San Siro nel 71, da Benetti, esattamente, e dove lui diceva quello che poi lei sostiene, che un giocatore gli ha stroncato di fatto la carriera e l'altro giocatore ha avuto una carriera brillante, riportando sempre alla mente i ricordi, non so se si ricorda il famoso cancello di Firenze, Kanceschi, che venne falsato da Taribo West, che in quell'occasione non fu neanche ammonito, una cosa mai vista. E non riesco a capire questa iniquità da dove venga, insomma, chi è che ha gli occhi foderati per non vedere queste cose? Non glielo so dire, sinceramente questa è una bella domanda che è solo apparentemente retorica, cioè con risposte incorporate, invece in realtà la risposta non c'è, perché davvero ci si chiede come si possa punire alla stessa maniera un'entrata come quella di Rivalta, o lasciamo stare che Benetti non fu nemmeno espulso in quell'occasione in cui spezzò tibia e perone a Liguori, ma insomma quelli sono fatti epocali che poi rimangono nella storia, nella mente di chi l'ha visti, o semplicemente di chi se li è sentiti raccontare, purché da qualcuno degno di fede a proposito. Ma quando invece si parla di routine, come in fondo è stata Genoa-Atalanta, perché per fortuna di così grave poi non è successo nulla. Ma non si può applicare lo stesso tariffario per chi commette dei normali falli di gioco e magari facendone due viene espulso, e per chi invece, con l'aggravante oltretutto, Rivalta, di essere entrato in campo 4 minuti prima, quindi questo vuol dire che aveva spugnato talmente tanta cattiveria, no? Assistendo a una partita agonisticamente tirata in panchina, che come è entrato evidentemente come un incredibile Hulk, penso, perché non ha... Non credo ci sia un'altra spiegazione, ma certo quel fallo su Palladino, pensare che gli è costato una sola giornata di squalifica è abbastanza incredibile. Alessio ha chiamato da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno signor Granzini. Mi permetta di insistere ancora una volta sul discorso del Milan, no? Allora è mi vero mi, che i giornalisti mi consenta allora non prego, mi consenta, non mi permette, mi consenta, il nostro presidente può, sì, averne dette di tutti i colori, come ogni giorno ne dice una, ne spara una al giorno, diciamo così, no? Gli scappa, allora, la frizione ogni tanto, dice lei, insomma. Ecco, bravo. Però è un dato, penso che sia inequivocabile, che aprendo anche il sito del Milan, dell'AC Milan, i titoli internazionali, questo è sempre quello che ha detto la società e penso anche il presidente, i titoli internazionali che il Milan ha vinto non ce li ha nessuno, quel numero lì. Poi se mettiamo dentro anche le coppe nazionali, i campionati, tutto quanto, magari qualcuno, ma lui ha sempre detto, mi sembra di aver sempre sentito, a livello internazionale i titoli che al Milan, non lui ma il Milan, non ce li ha nessuno. Poi forse fate voi i conti, magari non lo so, può anche essere, però le ripeto, cioè, quando sento o leggo che Santiago Bernabéu ha conquistato la metà di quello che ho ottenuto io sinceramente trasecolo. Dopodiché non, per carità, non c'è mica nulla, non c'è mica nulla di grave in questo. Lei stessa l'ha messa, mi pare, nella maniera più giusta, però ogni tanto è abbastanza, diciamo, sorprendente, ecco, questo tornare, no? Questo reiterare e battere sempre su quel chiodo. Leonardo, tocca a Leonardo, la provincia di Trapani. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buon Natale a tutti. Due cose. Intanto, perché nel calcio italiano predilige sempre di più l'aspetto fisico, secondo lei ha invece quello spagnolo tende sempre di più verso un aspetto più tecnico. E che fine farà Mauri nel momento in cui rientrerà Trezeguet alla Juventus? Dunque, che fine farà Mauri? Continuerà, credo, a giocare a titolare, penso proprio, perché anche tecnicamente, insomma, io trovo che abbia qualcosa più di Trezeguet, oltre all'età e alla gioventù dalla sua. Mi pare più completo, insomma. L'altro mi pare ancora più goleador, però questo mi sembra indubbiamente più completo, e quindi credo che continuerà a giocare a Mauri, ma poi con più impegni la Juve avrà, e quindi più avanti andrà in Coppa e più ci sarà spazio per tutti, per loro perlomeno, poi magari ce ne sarà meno per Iaquinta, ma quello è un altro discorso. Il calcio italiano sì, è indubbiamente un calcio più fisico di quello spagnolo, l'abbiamo visto agli europei, no? Mi pare che in questo momento, poi se parliamo della storia del calcio italiano e di quello spagnolo non c'è paragone nell'altro senso, ma oggi si è visto non tanto nel confronto diretto tra Italia e Spagna, quanto su tutto l'arco della competizione si è visto bene che tipo di calcio si gioca oggi in Italia e che tipo di calcio invece si gioca oggi in Spagna. Mi pare qualitativamente che sia più emozionante, insomma, e più gradevole quell'altro. Le 14:56, con grande puntualità oggi, e infatti Filippo Auregi in regia annuisce convinto, Flavio Soardi in redazione. Buon pomeriggio a tutti, Giornale Radio.